Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, come immaginabile, l'IMU, il ritorno dell'IMU, IMU 2 la vendetta, IMU strikes again, colpisce ancora, chiamatela come volete, ma insomma è chiaro che da quello che è emerso ieri, dopo che abbiamo avuto visione delle decisioni del Consiglio dei Ministri, l'IMU in parte, ma si pagherà. Che cosa è successo? Infatti, il Consiglio dei Ministri ha deciso di abolire la seconda rata IMU sulla prima casa, no? I 2 miliardi e 4 trovati dall'anticipo dei versamenti fiscali delle banche, sostanzialmente. Però, eccoci qua, restano a carico dei cittadini circa 500 milioni di nuove entrate messe a bilancio dai comuni attraverso l'innalzamento delle aliquote, cioè i comuni avevano già messo a bilancio complessivamente 0,5 miliardi di nuove entrate per l'anno prossimo. Ora, siccome metà di questa, delle nuove entrate non sono coperte dai finanziamenti statali, i 500 milioni è la quota che dovranno pagare i cittadini residenti in quei comuni. Attenzione, sono soprattutto comuni grandi. E infatti i milanesi dovranno pagare 55 milioni di euro in più, pagheranno anche napoletani, genovesi, bolognesi, cioè tutti quei comuni che avevano aumentato sostanzialmente l'aliquota IMU e poi immaginavano, da quello che ho capito io, di avere tutta la copertura, di averla tutta dallo Stato. Ieri il governo ha detto metà ve la diamo, metà ve la caricate ai vostri cittadini. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 gennaio e avverrà attraverso la forma di un aumento della TASI, tassa servizi indivisibili, TASI è sempre più TASI a questo punto, paga e TASI come la chiamano molti. Dunque, il comunicato di Palazzo Chigi è emblematico per quanto riguarda il gettito ulteriore atteso dai comuni che hanno deliberato per l'anno 2013 aliquote superiori a quella standard, circa metà dell'importo viene ristorata dallo Stato. A fini perequativi l'altra metà verrà versata dai contribuenti interessati a metà gennaio 2014. Allora, insomma, a parte i tempi, per carità, ma poi non si capisce più nulla. Molti ascoltatori ci scrivono, ma a questo punto potevamo tenere l'IMU e evitare di imbarcarci in questi casini? Io non lo so, però attenzione... I sindaci stanno reagendo in queste ore in maniera molto molto netta, perché il sindaco di Milano Pisapia ha detto sarà scontro istituzionale se il governo non cambia idea sull'IMU, confermare di dare ai comuni solo il 50% dell'extra gettito 2013 che loro avevano già messo a bilancio è una follia. Il sindaco di Bologna dice lo stop dell'IMU è una beffa per comuni e sindaci. Il sindaco di Pescara, Mascia, dice avvierò azione legale contro lo Stato. Il sindaco di Udine, Onze, dice è una misura inutile e improvvisata. Il sindaco di Venezia, Orsoni, dice c'è un disprezzo dello Stato per il rispetto delle regole. Il sindaco di Catania Bianco dice tutti i sindaci sono preoccupati, il governo che rischia la sua posizione. Il sindaco di Chieti dice basta col gioco delle tre carte. E il sindaco di Pavia chiede un incontro con il governo, e vi ho letto solo i principali dei comuni interessati. Attenzione, no, qui ne parleremo più avanti con chi rappresenta i comuni italiani. Il problema è che avevano già messo a bilancio queste cose i comuni, per cui è chiaro che la sorpresa è che solo metà viene pagata dallo Stato. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Nella prima ora invece parleremo del censimento delle imprese italiane. È un censimento altrettanto importante quanto quello che avviene per le persone fisiche, perché l'Istat lo compie ogni 10 anni e ci permette poi di avere il polso della situazione, al di là di tante analisi con campioni e quant'altro. Questo è proprio il censimento delle imprese. Va detto che in 10 anni le imprese sono aumentate dell'8%, chiaro che poi c'è stata una grossa frenata negli ultimi anni, dal 2008 in poi. Però il periodo dal 2001 al 2011 ha visto crescere le imprese di 8 milioni, dell'8%, pari a 4 milioni e 400 mila imprese, anche gli addetti sono cresciuti rispetto al 2001 del 4,5%. Poi lo analizzeremo con attenzione. Per il resto anche la borsa, Milano fa più 1%, Parigi fa più 0,20%, Francoforte fa più 0,40%, Londra fa più 0,16%, l'America fa niente, nel senso che oggi è chiusa per festività, e tra l'altro, già si iniziano a proiettare in questo ponte, come lo chiameremmo noi, è il giorno del ringraziamento in America, Thanksgiving, però capitano di giovedì. Saranno giornate di shopping intenso domani in tutti gli Stati Uniti e uscirà il primo indicatore, se ho ben capito, se ben ricordo, quello fondamentale per capire come andranno i consumi poi natalizi. È sempre a cavallo tra il Thanksgiving, appunto, e il primo weekend dopo il giorno del ringraziamento. Quindi nessun faro di Wall Street oggi per i mercati, euro a quota 1,3597, tra i titoli bene UbiBanca più 2,30, Intesa San Paolo più 2 come Fiat, UniCredit più 1,90, Banco Popolare più 1,70 come Pirelli e Buzzi Unice, Mediobanca più 1,5 come la Popolare di Milano, l'1,20 lo guadagna la Popolare Emilia Romagna. Fronte opposto invece Campari meno 1,40, Ansaldo meno 1,20, Diasori meno 1%. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, per quello che riguarda l'oro, volete sapere un po' che non lo diamo, l'oro è abbastanza stabile, $1,244 l'oncia, il petrolio è anch'esso stabile sotto i $100 al barile, praticamente $92,2. A proposito di petrolio, oggi c'è stato, come ogni anno, c'è stata la presentazione del World Energy Outlook da parte dell'ENI a Roma, che è, diciamo, una Bibbia, un Atlante per capire come si muoveranno i consumi energetici, petrolio e anche gas. Il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, ha detto: l'ENI in Africa ogni tanto ha qualche piccola preoccupazione, tipo la Libia, che non ci fa dormire sonni tranquilli, ma guardiamo tutto questo in prospettiva storica, insomma. Non ci spaventiamo troppo, siamo in Africa, siamo in Libia da quando c'era Re Idris, figuriamoci se ci spaventiamo oltre il dovuto per quello che sta succedendo. E poi Scaroni ha precisato che la nuova frontiera dell'ENI è l'Asia e sarà la seconda gamba del gruppo dopo l'Africa, il Golfo del Bengala. Asia però vuol dire anche soprattutto Kazakistan, con i due giant mega giacimenti di gas e petrolio, Karachaganak e Kashagan. E ascoltiamo appunto quanto è importante l'intero continente asiatico per gli sviluppi futuri dell'ENI. Noi siamo tradizionalmente una compagnia molto africana, 60% dei nostri idrocarburi vengono dall'Africa, ma da qualche anno abbiamo aperto questo nuovo fronte verso l'Asia. Pakistan, Myanmar, Vietnam, Cina, Indonesia, e in quei paesi abbiamo cominciato a crescere al ritmo in cui questi paesi crescono. Ci auguriamo di continuare a fare le scoperte che sono poi alla base del nostro successo, ma è l'area del mondo che ci interessa di più in questo momento. Quindi l'Europa, che se cammina divisa, non va verso una vittoria sicura sul mercato energetico? Devo dire la verità che ho l'impressione che anche camminando unita non stia facendo dei passi particolarmente importanti sul terreno della competitività. In Europa la rivoluzione dello shale gas americano ci ha visti spiazzati. Noi oggi ci troviamo a pagare il gas il triplo che negli Stati Uniti, l'energia elettrica il doppio. La domanda che mi pongo io, ma credo che sia una domanda per tutti, è come faremo a svilupparci come continente europeo in termini di investimenti industriali e in termini di occupazione fino a quando questo gap di prezzi non verrà colmato. Quali sono le linee della politica energetica dell'Italia che deve migliorare? Ma guardi, la politica energetica dell'Italia secondo me ha un unico terreno su cui forse varrebbe la pena intervenire, che è i sussidi alle rinnovabili. Le rinnovabili hanno avuto uno sviluppo impetuoso. Oggi i sussidi alle rinnovabili rappresentano 18% della bolletta elettrica degli italiani. Credo che sia sufficiente, non valga la pena di farli crescere ancora di più. A Ancora sul fronte dell'economia internazionale, il Brasile ha aumentato i suoi tassi di interesse. È interessante questo perché vuol dire che l'economia corre più del previsto. È la sesta volta che il Brasile aumenta il costo del denaro. Ora lo porta, pensate, al 10%, cioè qui in Europa siamo praticamente allo zero e invece il tasso di interesse brasiliano è al 10%. Secondo gli analisti, ma insomma secondo tutti, la decisione è stata presa per cercare di contrastare gli effetti dell'inflazione. L'inflazione brasiliana, il paese corre, cresce molto, l'inflazione è vicina al 6%. E il tasso di interesse reale, cioè la differenza tra l'inflazione e il tasso di interesse nominale, è il più elevato al mondo, per cui praticamente sono 3,5 punti. Se uno leva il 9,5 da 5,80, sono 3,5 punti di tasso di interesse reale, che non ha appunto uguali nel resto del pianeta. Vedo alcuni messaggi. Attenzione, il Black Friday, quello a cui facevo riferimento prima, non è una cosa negativa. Abbiamo avuto il Black Monday, il Black Thursday, il Black Wednesday, quando le borse andavano male. Il Black Friday in realtà è il ponte, come lo chiameremo noi, per fare acquisti negli Stati Uniti, perché nonostante il maltempo è previsto che vi saranno circa 140 milioni di persone che si riversano nei negozi, con un incremento atteso delle vendite del 4%, che vuol dire che verranno spesi 602 milioni di dollari. Poi altri di voi sono molto preoccupati sul Nasdaq, 4.000 punti, perché era il livello che raggiunse nel 2000, prima dello scoppio della bolla. Che cosa vi devo dire? Sì, sono livelli molto elevati, sia per il Nasdaq che forse anche per il Dow Jones. Detto questo, ma io più che del Nasdaq mi preoccuperei di quando l'America inizierà a ridurre lo stampaggio di moneta e cercare di rientrare sul suo deficit che viaggia intorno al 6% del PIL. Lì forse ne vedremo delle belle sulle borse. Più che il valore assoluto, è il tempo, diciamo, della scelta di politica monetaria che mi interessa da un lato e mi preoccupa dall'altro. Ancora, ma dunque il Bitcoin, ce ne occuperemo una volta, è volato sopra i 1073 dollari rispetto agli, sulla piattaforma online MT Gox, praticamente pensate che ha raggiunto un valore 80 volte superiore al prezzo di inizio anno. Complimenti chi se l'è comprato a inizio anno. Ancora Microsoft, una buona notizia per la Grecia. Microsoft ha annunciato che intende aprire un nuovo centro contatti in Grecia che servirà l'intera rete europea di clienti, 350 dipendenti all'inizio e poi 550. E ieri altre tre multinazionali, Coca-Cola, Nokia Solutions Networks e dell'AISE, avevano annunciato nuovi investimenti in Grecia sulla scia dei miglioramenti registrati negli ultimi tempi dall'economia ellenica. Soddisfazione da parte dei ministri finanziari di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna per il fatto che Colombia, Grecia, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo e Malta aderiscano all'iniziativa pilota sullo scambio automatico di informazioni fiscali in quelli che erano nella blacklist o comunque nella lista grigia. Mentre dall'incontro tra il consigliere economico del ministro di finanza italiano Vieri Ceriani e il segretario di Stato svizzero per le questioni finanziarie Jacques de Wattville, il governo di Berna, dopo questo incontro, ha detto che da Berna arriveranno presto proposte di soluzioni. Il tema è la questione fiscale dei capitali italiani detenuti dalle banche svizzere. Buono l'andamento dell'asta oggi italiana, ha venduto il tesoro 2 miliardi e mezzo, tutti 2 miliardi e mezzo di BTP a 10 anni. Una domanda più che buona, una volta e mezza l'offerta. Il tasso è sceso al 4%, quindi quello che abbiamo dovuto offrire noi per trovare compratori per il nostro debito a 10 anni, ed è il tasso più basso da aprile del 2013. Ancora qualche notizia in breve, poi non potevamo non avere il nostro appuntamento con i suggerimenti, chiamiamoli così, suggerimenti a Cottarelli sulla sua spending review. Allora, per quello che riguarda Federcostruzioni, non vede la ripresa nel 2014, il settore delle costruzioni resterà in recessione, non come quest'anno dove ha perso il 4%, ma comunque un meno 2,9%. Da inizio della crisi il settore delle costruzioni ha perso il 25% della sua produzione, ossia 690.000 posti, considerando anche i settori collegati. Invece per Alitalia ieri è scaduto il termine per il diritto di opzione per l'aumento di capitale di Alitalia da 300 milioni. Alitalia ha incassato un importo complessivo di 173 milioni e ha ricevuto riserve relative all'inoptato per quantità superiori a quelle disponibili. Allora, andiamo a raccontare alcune cose, a mio avviso in un caso obiettivamente incredibili, mentre ho visto che si sono dimessi tutti i consiglieri del PD della regione Piemonte, travolta da un'inchiesta che praticamente riguarda, se non ricordo male, 43 consiglieri, sono più della metà, 43 consiglieri di vari schieramenti, la stiamo raccontando da giorni. Si sono dimessi i consiglieri del PD che hanno lasciato gli incarichi, ma nel raccontare gli sprechi partiamo anche un attimo dai cugini d'Oltralpe. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Sì, Black Friday si chiama così perché il commercio in America porta i conti invece che dal rosso al nero, quindi in questo caso il nero è un colore positivo. Sì, nulla resterà per sempre, caro Brian Ferry, però intanto dobbiamo raccontare la solita vecchia storia, come recita questa canzone, perché mica siamo come i francesi che per fare economia hanno deciso non solo di vendere la collezione di vini dell'Eliseo, ma anche Matignon, la sede del primo ministro francese, il 6 dicembre metterà all'asta 1400 bottiglie, circa il 10% del totale, ma quante ne ha? 14.000 di bottiglie però. Tra Champagne, Grand Cru di Bordeaux, Bourgogne e altri vini alsaziani venduti alla casa d'aste Cornet de Saint qualcosa Drew, e il valore di ogni lotto che porta il marchio di provenienza Hotel de Matignon è stimato tra i 15 e i 5.500 euro. Lo scorso maggio, per la precisione, l'Eliseo aveva battuto in asta i vini e aveva ricavato 700.000 euro, che non è poca cosa, visti i costi che hanno anche in Francia il mantenimento dei palazzi istituzionali. E poi una buona regola che da noi si vede poco: l'amministratore delegato che sta uscente di PSA, di Peugeot Citroën, Philippe Varenne, PSA ha annunciato da poco un piano di tagli da 125 milioni di euro e lui invece ha rinunciato alla sua buonuscita, che era consistente, dopo un polemiche in Francia, da 21 milioni di euro. Io faccio solo notare che dei nostri manager io non ho ricordi, nonostante le polemiche, anche manager del pubblico. Qualcuno si ricorda Cimoli, si ricorda Catania, gli ex numero uno delle Ferrovie dello Stato? Beh, nessuno che, nonostante le polemiche, abbia mai rinunciato a 100.000 euro, 10.000 euro, perché lo prevedeva il contratto, ho capito. Ma se poi il gruppo va male, no? Forse fatti anche una domanda e dati anche una risposta. No, ma da noi sono tutti oltre. Siamo oltre, infatti scompaiono le agendine parlamentari, preparati i fazzoletti, i Kleenex, perché bisogna essere anche un po' solidali col nostro Parlamento. Il Collegio dei Questori di Montecitorio ha deciso: da quest'anno non verranno più prodotte le famose agendine parlamentari di pelle blu, non si potranno neanche più avere a pagamento. Era già stata presa dai questori nella precedente gestione, ma adesso l'abbiamo confermata, quindi niente agendine blu. nell'era di internet, del BlackBerry che hanno e di quant'altro, se possiamo anche sopravvivere. Quello su, a cui invece non possiamo sopravvivere, non voglio tornare sulle spese della regione Piemonte perché c'è da veramente imbarazzarsi, ma imbarazzarsi veramente, perché al di là abbiamo raccontato di Cota che in 115 casi non era laddove la sua carta di credito era e pagava il rimborso, uno sdoppiamento della personalità da mondi paralleli, continuano a uscire le spese, cioè, adesso l'assessore Michele Coppola si è comprato a carico dei contribuenti il deodorante, lo spazzolino, le Marlboro da 20, una cornice, una valigia, un DVD, un pacchetto di Chipster, le M&M's, gli arachidi, i taralli e poi altre cose più interessanti, tipo 4 coperti al Legal Seafood di Boston. Ma non vi vergognate, anche metterli in nota spese, cioè sarebbe come se mettessi in nota spese il pacchetto di caramelle, ma uno nel privato si vergogna a fare queste cose, da? No, nel pubblico no. Addirittura il CINAR, vabbè. Detto questo, perché poi c'è di tutto, ne avevo vista una bellissima che adesso ho perso, oltre alle ricariche telefoniche per la figlia, c'era una spesa che veramente bisogna pensarci per anni prima di arrivare a farla. Ma quello che mi fa arrabbiare oggi, attenzione, è quanto abbiamo scoperto sulla regione Lazio. Vi ricordate? Giunta Polverini, Erbatman, Fiorito. Fiorito ce l'abbiamo ancora? Ce l'abbiamo ancora da qualche parte, Fiorito? Che quello è un mito, no? Dice, oh, a noi i soldi ci servono per fare rappresentanza. Beh, la Regione Lazio quest'anno ha già messo a bilancio 17 milioni di euro di spesa per i vitalizi degli ex consiglieri. 1 milione in più rispetto all'anno scorso. Dei 66 milioni di euro in bilancio regionale, la spesa per vitalizi rappresenta il 25% del budget. Riguarda 43 consiglieri su 71. Non riusciamo a sapere il nome dei fortunati, perché che hanno il diritto al vitalizio dopo solo un quinquennio di mandato e già a 50 anni. Penso che sia l'unico lavoro, a parte che non è un lavoro, al mondo in cui tu lavori 5 anni, compi 50 anni e c'hai il vitalizio. Ma che volete di più della vita? Allora, rinunciare mai, mi raccomando. Poi c'è l'antipolitica, il populismo, la demagogia contro la casta, vabbè. In nome della tutela della privacy, infatti, l'identità dei destinatari resta sconosciuta, perché è importante che ci sia la privacy in questo paese sui vitalizi. Alcuni consiglieri incasseranno anche il trattamento di fine rapporto che spetta a tutti gli eletti. E tra coloro che riceveranno la liquidazione c'è anche Batman, c'è anche Franco Fiorito. In totale le liquidazioni sono 3 milioni e 4, vuol dire 50.000 euro a testa per ogni consigliere per poco meno di 3 anni di legislatura. E il bilancio della Regione Lazio quest'anno prevede già 4 milioni di euro per la vigilanza. Allora, voglio dire una cosa, ma porca miseria, ma perché la Regione Lazio? Perché la Regione Lazio spende per la vigilanza di un palazzo in cui nessuno entra a rubare perché hanno già rubato da dentro in molti casi? Spende 4 milioni di euro quando la Regione Lombardia col palazzo nuovo ne spende 825 mila euro, che sono vigilantes di serie B? Li hanno presi azzoppati e ciechi nella Regione Lombardia? O voi cosa avete? James Bond? Craig? James Moore? Ma chi ve la controlla la Regione Lazio? Tanto nessuno entra a rubare là dentro, è impossibile, diciamo, no, rubare i ladri. Tempo la Regione Lazio viaggia, veleggia con 24 miliardi di euro di buco, 24 miliardi di euro di buco, sono quasi due manovre finanziarie per una regione, la Regione Lazio, 11 miliardi e 700 milioni di debito finanziario, 12 miliardi, dicesi 12 miliardi, 6 volte la seconda rata dell'IMU quasi, 5 volte, è il buco di bilancio costituito per la maggior parte da debiti verso i fornitori. ogni singolo consigliere, diciamo, una dotazione circa 100.000 euro. E la moltiplichi per tre, per le quote che, diciamo, venivano destinate al sottoscritto, quindi sarebbero stati in tre anni 900.000 euro. Per nostra regola, da sempre, in regione, chi è capogruppo e presidente della commissione bilancio gli viene data una dotazione superiore in virtù del ruolo che ricopre. Noi vengono versati dall'ufficio di presidenza i soldi ai gruppi regionali. Questi poi hanno una funzionalità relativa alla conoscibilità dei gruppi, alla capacità di fare azione politica sul territorio, a rendere note le leggi che facciamo. Ma lei, e sono questi, mi scusi, organizzati secondo il rendiconto che poi noi ogni anno dobbiamo fornire. C'è una legge regionale che prevede che quel rimborso va versato all'interno del gruppo e il gruppo sia tenuto a restituirlo sullo stipendio dei consiglieri. Quando legge quelle cifre, sono comprensive del sottoscritto, che ne ha prese alcune di più, ma di tutti i consiglieri regionali che ogni mese, con questo tipo di attività prevista dalla legge, sul loro conto personale ricevono 4.190 euro per un rimborso forfettario, per il quale bisogna solo dire li abbiamo spesi per le attività rendicontate dalla regione. Sulla parola. Sulla parola. Questo è il meccanismo, l'ha spiegato Batman, il numero uno. Fiorito, a chi mi dice anche oggi nessuna notizia economica, ti occupi delle agendine, guardi, la radio è bella, il panorama radiofonico italiano è così ampio, lei faccia altro, ascolti altre radio. Adesso parleremo invece del censimento delle imprese, della borsa, dell'IMU, però guardi che di economico c'è anche quando una regione poi spende perde 24 miliardi. Secondo lei chi li pagherà questi 24 miliardi? Lei che, diciamo, oggi mi spiega giustamente che non c'è nulla di economico negli sprechi delle regioni italiane. Facciamo un quiz. Le regalo un'agendina del Parlamento. Chi pagherà, chi ripianerà i 24 miliardi di buco della Regione Lazio? Vediamo. A fine puntata scopriremo il vincitore. E vabbè, adesso vedo anche che se qualcuno dice ma ce l'avete l'ufficio legale al Sole 24 Ore, ma io non ho detto che tutta la regione, ma ci mancherebbe, che tutti i consiglieri rubino, ho detto che, visto l'inchiesta della magistratura, far vigilare un posto in cui buona parte del consiglio è da indagati, allora lo vigila chi? Perché non vuoi che i ladri entrino a rubare a certi ladri? Oppure si chiamano in un altro modo, non si chiamano più vigilante, si chiamano secondini, così l'ufficio della gara del Sole ha un'altra mano di lavoro per i prossimi mesi. Intanto la borsa ha chiuso, più 0,90% Milano, più 0,20% Parigi, più 0,40% Francoforte, più 0,14% Londra, miglior titolo in questo momento, anzi, miglior titolo e basta, UbiBanca più 2,20% tra quelle maggiore capitalizzazione, poi Intesa San Paolo più 2%, Banco Popolare più 2%, bene oggi le banche grazie all'asta dei BTP a 10 anni, vede che parliamo anche di economia ogni tanto. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso del censimento Istat e poi della borsa. Presidente Zingaretti della Regione Lazio, governatore, intervenga, la prego, ma non mi faccia, noi vogliamo eliminarla questa rubrica sugli sprechi delle regioni, dei comuni, delle province, ma non ce la facciamo, siete più forti di noi. Allora, noi non molliamo, però intervenga anche lei, ma perché avete messo a bilancio 4 milioni di euro per la vigilanza della vostra sede? E non vale a dire, riescono a farlo con 820.000 euro, copiate da loro, dai, sono 3.200.000 euro, lo dico seriamente, 3.200.000 euro, pigliate le famiglie bisognose del Lazio, date i soldi ai loro figli, dategli ai disabili che vanno a scuola, è populismo, sarà populismo, non ne frega nulla, ma non si possono spendere 3.200.000 euro in più per la vigilanza di una regione, diciamo, che era metà indagata nella precedente legislatura. Allora, adesso calmi, tutti calmi, perché sono cose anche serie, oddio, queste sono serissime, sono drammatiche, ma cose non così drammatiche come i risultati del nono censimento generale dell'industria dei servizi dell'Istat. È il censimento, l'equivalente del censimento che abbiamo noi persone fisiche per le imprese, è l'unico che ci dà dati, anche se leggermente in ritardo perché ci vuole tempo per farlo, dati definitivi, non campioni. E quindi scopriamo che dal 2001 al 2011 risultano attive circa 4.400.000 imprese in questo paese, con 16 milioni e mezzo di addetti, sono cresciute dell'8,5%, gli addetti di quasi il 5%. Quindi ci sono state, nonostante le chiusure, i fallimenti dovuti dal 2008 in poi alla crisi, il saldo comunque positivo per 340.000 imprese. È cresciuto meno il nord-est, più 4%, il nord-ovest addirittura è calato, meno 0,1. Meglio sono andati il centro e il sud. Per quello che riguarda i settori, si registra una riduzione del numero di imprese dell'industria in senso stretto, manifatturiera, meno 18%, sono 100.000 imprese in meno e 900.000 addetti in meno. E da qualche altra parte però qualcosa deve essere cresciuto. Allora ringrazio il direttore del Dipartimento per i Conti Nazionali e le statistiche economiche dell'Istat, Roberto Monducci, buonasera. Buonasera. Fate delle qualifiche più brevi perché mi va via il programma, Monducci. Allora, chi è cresciuto se la manifattura è calata di 100.000 imprese in 10 anni? Sì, diciamo che più di tutto anche all'interno della manifattura c'erano state delle crescite, per esempio il settore delle macchine, apparecchi e meccanici, quindi Made in Italy, diciamo, evoluto, è cresciuto sia in termini assoluti che relativi, però chiaramente i servizi l'hanno fatta da padrone, nel senso che sono cresciute 350.000 addetti nei servizi di ristorazione, 230.000 nelle attività professionali, 280.000 nel noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, 150.000 nella sanità, assistenza sociale. È quello che si dice la terziarizzazione. Quindi il cosiddetto terzo settore ha confermato anche nel vostro censimento dati molto forti di crescita, perché ne parliamo poco, ahimè. Ma è un settore assolutamente importante, che è un vero settore economico, quelli che alcuni chiamano non profit, nel senso un po' lato, però è un vero settore economico. Prego, Monducci. Sì, questi diciamo sono dati sulle imprese, quindi imprese di mercato. Il no profit c'è stato un censimento a parte che effettivamente ha testimoniato un ordine di grandezza importante. Comunque sulle imprese in 10 anni abbiamo avuto questo tipo di ricomposizione, diciamo, tra i settori, ma quello che non è cambiato è la struttura dimensionale delle imprese italiane. Quindi nonostante la globalizzazione, l'euro, fenomeni di tutti i tipi, noi siamo rimasti piccoli e addirittura la dimensione media delle imprese è diminuita, quindi questo è un tratto strutturale delle imprese italiane con cui ormai dobbiamo fare i conti e puntare tra l'altro proprio su questo fattore, sulla frammentazione come potenziale di crescita. Ecco, su questo vorrei sentire, perché devo dire che la Confindustria, ma anche altre associazioni di categoria, hanno fatto molti sforzi in questi anni per spiegare con convegni, seminari, workshop, che in un mondo globalizzato con le cosiddette reti lunghe, quindi devi andare a vendere in India, nelle Filippine, in Cina, nel sud-est asiatico, in Brasile, le dimensioni non bastano più, quelle di una volta, non hai nemmeno la risorsa economica per arrivare in certi mercati e devi unirti, che siano fusioni, che siano joint venture, che sia far entrare private equity, che sia mettersi in rete sulla filiera del valore, da fornitori, subfornitori e ultimo datore di lavoro finale, ultimo produttore finale, però non puoi restare da solo. Purtroppo la fotografia che voi scattate è un po' desolante da questo punto di vista, e la vorrei sentire dopo il traffico. A chi mi dice, vabbè, poi risponderò, a chi mi dice Barisoni vattene in Svizzera, no, vedi, il problema è che se un orso le entra in casa, lei non è che esce da casa sua, manda via l'orso. Allora io voglio che in Svizzera, o dove vogliono andare loro, vadano certi politici che gestiscono così male la cosa pubblica, e io voglio restarmene in Italia, non me ne vado in Svizzera, mi dispiace, andassero loro in Svizzera, ma anche in luoghi più ameni, diciamo isole sperdute, ce n'è una bellissima vicino all'Africa, Santena, un nome molto evocativo. Allora, 17:51 minuti, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Dottor Monducci, nonostante gli sforzi, la vulgata, gli articoli, le analisi, l'aver spiegato in decine di convegni che bisogna aumentare le dimensioni, il capitale o mettersi in rete, la fotografia che voi scattate sul mondo delle imprese italiane, che però riguarda tutte, servizi e manifattura, è ancora un po' desolante. Ma io onestamente non sono molto bene, d'accordo. Bene, vai. Quello che vediamo invece è che in pratica il fattore dimensionale non è assolutamente una condanna. Noi abbiamo un numero elevatissimo di imprese internazionalizzate anche di piccole dimensioni, parliamo anche sotto i 10 addetti, che riescono a fare cose assolutamente impensabili fino a 10 anni fa. Questo deriva dal fatto che la tecnologia e comunque la globalizzazione hanno portato dei vantaggi anche per le piccole imprese. Quindi da un lato effettivamente abbiamo dei problemi soprattutto dal lato della solidità finanziaria, della capacità di assumersi dei rischi, perché chiaramente l'innovazione e l'internazionalizzazione incorporano dei rischi, quindi la piccola dimensione su questo effettivamente non è supportata. Dal lato imprenditoriale abbiamo invece un dinamismo molto, molto, molto elevato. Il problema è che abbiamo una fetta enorme effettivamente delle imprese italiane, intorno al 65%, che noi abbiamo chiamato conservatrici, che esprime una, diciamo, una propensione innovativa molto bassa, hanno strategie molto difensive, non diversificano i prodotti, innovano poco e quindi effettivamente è un problema proprio per il paese. Però questa fascia di, diciamo, imprese conservatrici è presente in tutti i segmenti dimensionali, cioè noi classifichiamo il 30% delle grandi imprese come conservatrici, il 40% delle medie imprese come conservatrici, quindi il taglio dimensionale viene in qualche modo, il problema dimensionale viene in qualche modo ridimensionato dal censimento. Okay. Contano molti comportamenti, conta molto, come dire, il manico, come si diceva. No, ma lei mi conforta, perché se poi in realtà la parte di imprese conservatrici è più bassa, io sono solo che contento. Ripeto, i meccanismi possono essere tanti per aumentare le dimensioni, non c'è solo bisogno di vendere o fondersi, uno può sbarcare in borsa, può fare entrare un private equity, può mettersi in filiera in un comparto che magari ha la testa di ponte in Asia, ma tu sei fornitore o subfornitore, e l'importante è collocarsi sul valore aggiunto, dove c'è valore aggiunto. Un'ultima nota sulle dimensioni. Attenzione, le dimensioni corrette sono quelle per il settore in cui tu sei. Voglio dire, un bambino di 8 anni, mio figlio, all'altezza che ha, non è nano, è piccolo. Ecco, Brontolo era nano, non era piccolo. Va bene, volevo dire un altro esempio di un politico italiano, ma non voglio beccare abbastanza querele oggi. Allora, bisogna capire se tu hai le dimensioni corrette, fisiologiche, per l'attività, per il ruolo che hai. In quel caso non sei nano, sei piccolo, allora, e vai bene così, magari ricavi anche migliori, prego. Diciamo questo, il censimento conferma effettivamente un dimensionamento molto basso anche a parità di settore, di specializzazione. Questo è evidente, ormai è un elemento assolutamente acquisito proprio dalle analisi, dalle statistiche. A parità di settore industriale noi abbiamo una dimensione media che è molto inferiore a quella dei paesi europei. Rispetto alla Germania siamo su un pianeta completamente diverso. Questo però non impedisce alle imprese di competere, questo è l'elemento importante. E secondo me, secondo noi, il contesto generale, relazionale, diciamo, è favorevole a un sistema, è più favorevole oggi che in passato a un sistema imprenditoriale come quello italiano, è molto Mi dica solo una cosa, che ho 30 secondi, ma negli ultimi anni i comportamenti sono cambiati per via della crisi, sì o no? Certo, noi abbiamo misurato anche dei comportamenti in termini di variazione di strategie. È evidente che la crisi ha accentuato le strategie difensive e ha ridimensionato in qualche modo comportamenti più rischiosi. Questo deriva chiaramente da una crisi di domanda interna. Certo, rischioso vuol dire andare di più sull'estero, mettersi un po' più in filiera. Questo per dire che la crisi, che ha tanti danni, ha creato anche qualche spinta in più, l'ha data a chi magari si era un po' seduto. Certo che avremmo voluto vedere altre spinte, non la spinta della più grossa crisi dal 29 in poi. Comunque, grazie Roberto Monducci, del direttore del Dipartimento per i Conti Nazionali e le Statistiche Economiche dell'Istat. Adesso c'è il GR, poi la borsa e poi i comuni strarrabbiati per la rata IMU. Alle 18:07 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni, adesso la borsa e poi la sorpresa dell'IMU. Sorpresimu, non ce l'aspettavamo, oddio, qualcuno se l'aspettava ieri sera che mi aveva messo in guardia, poi lo interrogheremo come faceva a saperlo. Andiamo subito sulla borsa. Wall Street chiusa, Thanksgiving, e non thanks God, ma Thanksgiving, quindi giorno del ringraziamento. Parigi più 0,22, Francoforte più 0,40, Londra invariata ci regala anche oggi uno 0,07% stile britannico, più 0,90% invece Milano, grazie alle banche, grazie al buon andamento dell'asta dei BTP, buona la domanda, i minimi tasso al 4%, BTP a 10 anni oggi collocati per 2,5 miliardi. Ripeto, domanda una volta e mezzo l'offerta, ma soprattutto abbiamo dovuto spendere un po' di meno per trovare compratori a lungo termine per il nostro debito, e il tasso del 4% vuol dire il tasso più basso da aprile di quest'anno. Archivierei così i titoli bancari e chiedo conferma a Paolo Paronetto di Radio Cori, Sole 24 Ore. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Sia parte il tema generale che è dovuto a quello che dicevi tu, ci sono sempre i due temi del Banco Popolare da una parte. Lì volevo arrivare, Monte dei Paschi dall'altra. Grazie. Allora, Monte dei Paschi invariato da un lato, però perdeva anche qualcosa, invece Banco Popolare più 2%. Sì, l'MPS ha chiuso infatti sulla parità meno 0,05, però di fatto in controtendenza rispetto ai buoni rialzi di tutti gli altri titoli del settore, continua a risentire dell'annuncio dell'aumento di capitale da 3 miliardi e delle possibili tensioni con la fondazione azionista, che sembrava in precedenza più favorevole a uno slittamento della ricapitalizzazione, anche se adesso ha assicurato che farà la sua parte. Proprio in questi minuti stanno uscendo i dettagli del piano di MPS con i target al 2017 e vedremo domani come saranno accolti dal mercato. Per quanto riguarda invece il Banco Popolare, ha guadagnato il 2,02% e continua a beneficiare del maxi riassetto annunciato martedì, che porterà a incorporare tutte le controllate, tra cui Banca Italease e il Credito Bergamasco, che anche lei è quotata e ha guadagnato oggi il 2,52%. Com'è andata Generali dopo l'Investor Day, in cui c'è stato anche un orgoglio italiano, insomma, nel mostrare quello che è il secondo gruppo assicurativo a livello europeo, se non ricordo male, quello che ha saputo fare, quello che vuole fare, gli obiettivi, insomma, un orgoglio Italia in qualche modo? Beh, è stata una giornata tutta in positiva, chiuso facendo un po' meno bene dell'indice, più 0,65%, e le reazioni degli analisti sono state un po' in chiaroscuro, cioè ci sono apprezzamenti per la prospettiva di taglio dei costi, di aumento della redditività e del dividendo, anche se alcuni segnalano che di fatto non ci sono state grosse novità e quindi hanno confermato i propri giudizi e i propri obiettivi. Ancora tra i titoli, oltre a quelli bancari, segnalo Campari, meno 1,70, Ansaldo meno 1,5, Diasorin meno 0,80%. Per quello che riguarda invece chi è andato bene, anche Buzzi Unice in più 2%, Pirelli più 1,70, Fiat più 1,70, non ho citato Unicredit più 1,70, poi Tenaris più 1,60, Popolare di Milano più 1,60, Mediobanca più 1,40%, Popolare Emilia Romagna più 1,30, Snam più 1,20, Enel più 1,20 anch'essa. Tra i migliori e peggiori in assoluto, EMS più 9,3% da un lato, e dall'altro molto bene anche Isagro, più 5,20%. Qui ci sono notizie di mercato. Sì, per quanto riguarda EMS, il titolo era stato sospeso ieri, è stato riammesso questa mattina dopo l'annuncio dell'accordo di ristrutturazione del debito con le banche creditrici, una notizia di cui ovviamente il titolo ha approfittato, che è stata bene accolta dal mercato, che ha premiato le quotazioni della società fin dall'avvio. L'annuncio è proprio della ristrutturazione del debito da oltre 47 milioni con il pool di banche creditrici. EMS ha fatto segnare la migliore prestazione del listino. Per quanto riguarda Isagro, invece un più 5,24% dopo che la Commissione europea ha dato via libera al fungicida prodotto dalla società, quindi un nuovo prodotto che ha ottenuto di fatto il via libera alla commercializzazione dell'Unione europea e la società ne ha approfittato. Peggiore invece in assoluto oggi Seat Pagine Gialle meno 4,40% e Banca Carige meno 3,80%, Borgosesia meno 3,70%, Reno De Medici meno 3,5%, Telecom Italia Media meno 2,70%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso, ultimo tema di questa puntata, la sorpresimu, nel senso che ieri in serata, vi svelo un anetto, ho chiamato Salvatore Padula, perché stavamo preparando il GR di Radio 24 come ogni sera, ho detto: ci fai il commento sul Consiglio dei Ministri, ha detto: beh, aspetta un attimo, perché stanno arrivando forse delle sorprese a Roma. E purtroppo le sorprese sono arrivate e si chiamano metà dell'IMU, cioè 500 milioni, mezzo miliardo di nuove entrate messe a bilancio dai comuni, dovremmo pagarle noi. Mi sembra anche giunto il momento di dare la risposta, vediamo chi ha vinto, su chi invece ripianerà nel tempo i 24 miliardi di buco della Regione Lazio. Winner is il cittadino, non Citizen Kenny, cittadino contribuente, saremo noi, alcuni hanno indovinato, altri hanno detto pantalone, beh insomma, sempre lì arrivavamo, complimenti a Zingaretti, lo ripeto la seconda volta, almeno i 4 milioni della vigilanza, li porti 820 mila per i vigilantes del Palazzo della Regione, come spende la Regione Lombardia, ok? 3 milioni e 2 di risparmio, ci scriva Zingaretti quando vuole, siamo qua a prendere tutti i refusi, le denunce possibili. Allora, la domanda è, caro Salvatore Padula, come facevi a sapere che stava arrivando? E non posso giocare con tuo cognome, però. Bravo. Caro Salvatore Padula, come facevi sapere che stava arrivando il tuo omonimo maschile sull'IMU? Prego. Carina. E dai, facciamo questo lavoro, insomma, come facevamo a saperlo? Lo sapevamo, insomma, lo stavamo prevedendo, stavamo curando questa eventualità da un paio di giorni, avevamo dei dubbi e poi alla fine si è palesata. Tu l'hai spiegato, no? Insomma, qui c'è una sorpresa, nel senso che l'IBU sulla prima casa non si pagherà più a meno che il comune in cui sta l'abitazione non abbia aumentato nel corso del 2013 l'aliquota dell'IMU. In quel caso pare, perché il testo definitivo ancora non ce l'abbiamo, pare che il 50% di questo maggior importo 2013-2012 resterà a carico del proprietario di prima casa, quindi insomma diciamo un'abolizione dell'IMU parziale, perché qualcuno l'IMU sulla prima casa la pagherà. Non dovrebbero essere importi straordinari, però insomma, sempre mezzo miliardo è sempre una sorpresina. Sì, esatto, pare che il 50% circa di quel mezzo miliardo, di quei 500 milioni, se li terrà a carico lo Stato, cioè lo Stato li compenserà comunque i comuni, però gli altri 250 milioni verranno spalmati insomma tra i comuni, tra i proprietari di prime case. Sì, il problema è che fossero anche 250 milioni, non si applicano a tutti i comuni italiani, ai 5.000 mi sembra comuni italiani, ma solo ad alcuni sono i più grandi. E infatti leggo in rapido ordine le dichiarazioni dei sindaci. Pisapia, sindaco di Milano, sarà scontro istituzionale se il governo non cambia idea sull'IMU. Merola, sindaco di Bologna, lo stop all'IMU è una beffa per comuni e cittadini. E ancora Mascia, sindaco di Pescara, avvierò azione legale contro lo Stato. Il sindaco di Udine, Honsel, è una misura inutile e non improvvisata. Il sindaco di Venezia, Orsoni, c'è un disprezzo da parte dello Stato per il rispetto delle regole. Il sindaco di Catania, Bianco, tutti siamo preoccupati come sindaci, il governo che rischia la sua posizione. Il sindaco di Chieti chiede basta al gioco delle tre carte e il sindaco di Pavia chiede che il governo li incontri. Questi sono tutti i comuni coinvolti questi sono i grossi comuni coinvolti. In realtà i comuni complessivamente coinvolti saranno molti di più, cioè saranno tutti quelli, svariate centinaia, forse migliaia, che hanno aumentato l'aliquota IMU nel 2013 rispetto al 2012. E poi, se vuoi, ti dico un'altra cosa. Basta che non sia una nuova novità, perché sennò te lo cambiamo in maschile. La novità è che comunque dobbiamo aspettare il testo definitivo, che naturalmente non c'è, insomma ci stanno ancora lavorando, eccetera. Come sempre. La cosa però sulla quale forse vale la pena anche un po' riflettere è che i sindaci sono stati anche un pochino furbetti. Lì volevo arrivare. Perché? Perché mi scrivono gli ascoltatori. che ho sempre degli ascoltatori maliziosi, dicono: attenzione, alcuni sindaci hanno volutamente aumentato l'aliquota IMU, sapendo che in questo modo, poi avendolo messo a bilancio, il governo avrebbe dovuto pagargli in ogni caso. Come dire, io ti sparo la parte più alta possibile, incasso di più, e poi mi incavolo con il governo se tu non me la ripiani, visto che vuoi eliminare tutta l'IMU. È un giochetto, come dire, siccome me la vuoi eliminare tutta l'IMU, sarai obbligato, caro governo, a pagarmi anche quella parte lì. È un sospetto, quello. Non è affatto un sospetto. È un sospetto che l'abbiano fatto per questo motivo. No, è un dato di fatto che l'hanno fatto, però è un sospetto che il motivo fosse questo. Ma il sospetto ce lo svelerà il sindaco di Ascoli, che è anche responsabile dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per la Finanza Locale, Guido Castelli. Buonasera. Buonasera. Le chiedo un minuto di pazienza, che ho il traffico, e poi ci dica che non è così, che non è vero che alcuni comuni hanno fatto i furbi, hanno sparato alto sapendo che poi il governo avrebbe dovuto, lo Stato avrebbe dovuto ripianare, e si sono tutti posizionati in quel caso nell'aliquota più alta possibile per quella che era la competenza, la parte quota dei comuni. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Con Lazio arriveremo dopo. Il Lazio ha 24 miliardi di buco, di cui 12 miliardi con i fornitori, e spende 4 milioni di euro per la vigilanza contro gli 800 mila euro spesi dalla Regione Lombardia. Però non posso fare la puntata su Zingaretti, il Lazio, sui suoi predecessori Polverini, come si chiamava quell'altro? Marrazzo. Allora, sindaco di Ascoli, in quanto responsabile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ci dica che non è così, che alcuni suoi colleghi non hanno fatto i furbi, hanno posto l'aliquota massima sapendo che in quel modo obbligavano lo Stato poi a ripianargliela tutta, perché in quel caso il governo avrebbe anche forse un po' di ragione nel dire: sapete che c'è? Metà o due terzi ve la pago io, e l'altra la chiedete ai vostri cittadini, così imparate a collocarvi nell'aliquota più alta possibile dell'IMU. Prego. Allora rispondo facilmente, perché se anche così fosse, ovvero che questa insinuazione riposasse su un fondo di verità, lo sbaglio vero l'ha fatto il governo, che nell'annunciare il 28 aprile attraverso il nostro premier Letta la sospensione dell'IMU, meglio il fatto che sulla prima casa non si pagasse, ha omesso di indicare con precisione, con una norma, che effettivamente il rapporto per il rimborso dell'IMU era quello rappresentato dall'IMU 2012. Nessuna norma è stata emanata che andasse in questo senso, quindi come si fa a dire al sindaco di Milano Pisavvio che ha fatto una cosa che non doveva, quando ha esercitato una facoltà che addirittura non solo era lecito esercitare allora, ma che ancora potrebbe essere esercitata da tutti i comuni italiani, anche quegli 7600 che non hanno aumentato l'IMU, perché come è noto la norma prevede che entro il 30 novembre si possa addirittura ulteriormente riallineare l'IMU prima casa, perché la cosa veramente assurda è questa: in questo carosello fiscale che ormai sta accompagnando i comuni da 4 anni, i sindaci sono costretti, se volete, anche a ricorrere a delle malizie, ma che in qualche misura sono imposte dallo stato di necessità, perché quando in 4 anni, non è il solito pianto del coccodrillo, i comuni d'Italia devono contribuire al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 16 miliardi di euro, pur rappresentando appena il 6% della spesa pubblica italiana, allora c'è qualcosa che non va. Allora, da un lato cerchiamo di individuare le ragioni per le quali il governo e il Parlamento hanno dimostrato una certa leggerezza nel non esprimere una norma chiara il fatto che l'IMU non si potesse aumentare, perché da questo punto di vista siamo andati dietro al diapason delle polemiche politiche. Nel frattempo però noi sindaci avevamo gli stipendi da pagare, gli asili nido da aprire, dura un conto, però siccome questi sono sindaci di grandi città, Venezia, Bologna, Milano, non sono il sindaco. Venezia no, devo dire. Ma Orsone non parla per niente. Vabbè. Prendiamo no, atto che Napoli. Orsone è arrabbiato a prescindere, va bene. Però dico, siccome sono sindaci di grandi città, non stiamo parlando con il povero sindaco del comune di 5.000 abitanti che magari non ha gli strumenti. Qui ci sono valutazioni anche politiche, sono sindaci che delle volte poi si candidano in Parlamento, altre volte si candidano alla guida del PD, altre volte si candidano e basta. Insomma, non è che stiamo parlando di demi-vierge, di mezze vergini. Allora, diciamocela tutta. Se voi sapete che il governo ha intenzione di levare l'IMU e io nel frattempo aumento l'aliquota del mio comune, la porto al massimo dell'IMU possibile, è chiaro che sto dicendo implicitamente: siccome la levi, mi ripaghi anche la quota parte mia. Non me l'avessi levata, avessi dovuto farlo io, forse non l'avrei aumentata, perché poi i cittadini si arrabbiano. Io questo sospetto ce l'ho. Che poi, per carità, è legittimo. Volevo solo dire che il sospetto è, ripeto, praticabile, anche perché insomma è sotto gli occhi di tutti che molti comuni hanno obiettivamente cercato di elevare l'IMU proprio per fronteggiare buchi che nel frattempo si erano aperti, voragini in qualche caso. Però è anche vero che uno Stato che in qualche misura voglia assomigliare a uno Stato di diritto si deve pur consentire lecito tutto ciò che la norma autorizza e consente. Cioè, il vero problema è che i sindaci probabilmente hanno anche fatto un pensiero sul fatto che appunto si poteva forse evitare. Io non l'ho fatto, io sono il presidente di ASC. Ma io non dico di lei, dico più che guardi, quanto per mille, quindi absit iniuria verbis per quanto mi riguarda. Sì. Dico però che scordarsi di mettere una norma che stabilisca. No, ho capito, quello che dice lei l'ho capito. Non è un pensiero, è un incubo per i cittadini ed è un dato di fatto perché l'hanno aumentata. Salvatore Padula? No, io volevo dire una cosa: è molto brutto, secondo me, anche come messaggio esterno, no, che diamo a tutti. Il fatto che poi da questo scontro istituzionali, Stato, Comuni, però poi a pagare siano, voglio dire, no, i cittadini. No, non cioè, mi dire, questa è una breaking questa, news. Attenzione, attenzione, cos'è successo? Paghiamo noi. Ecco, paghiamo noi. Cioè, e quindi questo è il messaggio brutto, secondo me, che sta dietro, cioè, perché quello che dice il sindaco Castelli è giustissimo, cioè c'è stata questa incomprensione tra Stato e Comuni e quindi si è determinata questa situazione, qualcuno ci ha marciato, qualcuno però, è in buona fede. Salvatore, ma come nelle incomprensioni tra marito e moglie, se nessuno dei due alza il telefono, l'incomprensione rimane, non so, Pisapia o il sindaco di Bologna o Fassino per Lanci, poteva alzare il telefono e dire: caro governo, siamo sicuri che tu ti riferisca al 2013 o al 2012, perché il governo nicchia, voi nicchiate e noi facciamo i nicchioni. No, ma io non dubito che loro l'abbiano fatto, però alla fine i bambini, cioè i figli che siamo noi, alla fine ci rimetteremo, e questo secondo me non è bello. Oggi basta, oggi basta, perché abbiamo iniziato col Piemonte, la regione Lazio, poi per fortuna c'era portato il rapporto di Istat, adesso pure mi sembrano un po' le scimmiette, uno non sente, l'altra non vede, e così poi uno alza l'IMU, il governo non specifica una cosa, voi non la verificate, e alla fine il nostro appello di oggi resta sempre il solito. Salvateci. Intanto noi restiamo qua anche domani dalle 17 in poi. Io ringrazio il sindaco di Ascoli, nonché responsabile del Lanci per la finanza locale, Guido Castelli, anche per la schiettezza con cui non ha difeso, diciamo, a spada tratta. Sì, qualcuno magari ci ha pensato. Grazie Salvatore Padula, spero di non sentirti stasera, visto quello che ci è successo ieri sera. Focus torna dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente. Focus Economia.